Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:17 minuti, come ampiamente annunciato nel corso del nostro giornale radio, anche noi oggi parliamo della giornata mondiale del risparmio che appunto si svolge oggi, dovrebbe essere ancora in corso il discorso, scusate il gioco di parole, del governatore Mario Draghi, noi lo faremo quest'oggi con due ospiti, in studio con me il collega di Plus 24 Marco Lo Conte, che saluto, benvenuto Marco. Grazie. Ciao Valeria, ciao a tutti. E collegato telefonicamente con noi il professor Gino Gandolfi, professore ordinario di economia del mercato mobiliare alla facoltà di economia dell'Università di Parma, che saluto, benvenuto professore. Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Prima di tutto vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci, 800240024, numero verde con cui potete intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Prima però di affrontare l'argomento di oggi, il tema di oggi, velocissimamente andiamo ancora sui mercati per vedere che cosa sta succedendo, segno più, come dicevamo, per le piazze europee che addirittura hanno incrementato i guadagni nel corso della mattinata. Parigi è in progresso dello 0,73%, Francoforte dello 0,63%, Londra guadagna uno 0,94%, bene anche Milano, dove il FTSE MIB e il FTSE All Share guadagnano lo 0,95% circa, supportati da alcune trimestrali molto buone, in particolare quella di Eni, che ha visto una crescita del 39% nel terzo trimestre, 1,72 miliardi di euro. In questo momento è il secondo miglior titolo, Eni guadagna il 2,48%. Bene anche STM, che è il primo titolo, guadagna 3 punti percentuali. Atlantia guadagna 2 punti sull'onda della notizia che la finanziaria della famiglia Benetton, Sintonia, è salita oltre il 40% del capitale. Mediaset guadagna l'1,99%. Poco più giù troviamo Mediobanca, che beneficia anche in questo caso della trimestrale, più 1,63%. In fondo al listino invece troviamo Intesa San Paolo, che cede lo 0,48%, Pirelli lo 0,32%, Azimut lo 0,27%, Ubibanca lo 0,13%. Dobbiamo comunque dire che i listini europei sono in attesa innanzitutto delle elezioni della prossima settimana negli Stati Uniti e di alcuni dati importanti che arriveranno sempre dagli Stati Uniti, in particolare domani il dato relativo al terzo trimestre per quanto riguarda il PIL, poi oggi pomeriggio i sussidi di disoccupazione, e quindi staremo a vedere. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,38 e 31 sul dollaro, e qui chiudiamo la nostra parentesi relativa ai mercati. Come dicevamo, appunto, la giornata del risparmio, già ieri è uscito l'indagine Ipsos per Acri che riguarda alcuni aspetti del risparmio, che cerca di dare una fotografia, anche se dobbiamo subito dirlo, non è una fotografia poi fedele al 100%, perché si tratta sempre di un campione, però possiamo dire alcune cose. Intanto che si mantiene stabile la percentuale di famiglie che riesce a risparmiare, intorno al 36-37%, però c'è sicuramente una famiglia su 5 che è pienamente coinvolta nella crisi, che ad esempio ha visto un proprio componente o un proprio familiare magari andare in cassa integrazione, perdere il lavoro. Una famiglia su 4 si indebita per sostenere alcune necessità primarie, quindi si indebita per, diciamo, per il quotidiano. Il 68% di coloro che riesce a risparmiare, di coloro che riescono a risparmiare, mantiene liquidi i risparmi, e comunque complessivamente c'è una visione più cupa della crisi che stiamo attraversando, che stiamo ancora attraversando. Più dello scorso anno le famiglie italiane sono piuttosto negative sulle previsioni e quindi ritengono che usciremo con più lentezza da questa crisi, quindi ci vorranno più mesi se non più anni addirittura. A questo proposito forse è utile ascoltare quanto detto proprio ieri da Pagnoncelli, che ha curato per Ipsos questa indagine, proprio a proposito di come la vedono le famiglie italiane. Sicuramente c'è stata un'inversione molto forte del clima sociale tra il 2009 e il 2010. Mentre il 2009 era improntato a un ottimismo che molti hanno giudicato sorprendente proprio perché era in concomitanza con l'esplosione della crisi, ma era un ottimismo giustificato da due macro fattori: da un lato aspetti, se vogliamo, psicologici, l'interiorizzazione della crisi, da anni diciamo di essere in crisi, poi arriva la crisi violenta e ci fa meno paura, siamo un po' vaccinati; altro aspetto psicologico, la relativizzazione della crisi, cioè il fatto che noi abbiamo ritenuto il 2009 di essere messi molto meglio rispetto ad altri paesi. C'erano però anche stili di consumo che hanno determinato un adattamento alla crisi. Gli italiani in questo sono stati molto bravi, hanno saputo sfruttare anche le occasioni determinate da un'inflazione molto bassa e così via. Tutto ciò ha determinato un compiacimento di potercela fare. Nel 2010 la situazione cambia drammaticamente. Il tema occupazionale è ai vertici delle preoccupazioni degli italiani. Quasi una famiglia su quattro, abbiamo visto, è in contatto diretto con persone nella propria stretta cerchia che hanno avuto problemi tipo occupazionale. Ecco, in una situazione di questo tipo è chiaro che gli italiani tendano a confermare l'importanza che attribuiscono al risparmio, che è un elemento culturale, possiamo dire, degli italiani. Un terzo, un poco più, 36% è riuscito a risparmiare negli ultimi 12 mesi, ed è interessante osservare che anche coloro che hanno avuto un peggioramento del loro tenore di vita qualcosa sono riusciti a mettere da parte. Allora, ovviamente la premessa necessaria è che in un momento così difficile forse a volte può sembrare anche stonato parlare di risparmio, appunto nel momento in cui tante famiglie fanno difficoltà, hanno difficoltà proprio ad arrivare alla fine del mese. Però comunque dall'indagine Ipsos per Acri, come abbiamo sentito anche da quanto diceva il presidente Pagnoncelli, che ricordo era al microfono di Vincenzo Miglietta, ci sono tante famiglie che riescono a mettere qualcosa da parte. Allora, professor Gandolfi, si riconferma un po' questa propensione al risparmio degli italiani, che comunque in tante occasioni è stata sottolineato come un dato estremamente positivo e confortante per il nostro paese? Certo, il fatto che sia un dato incoraggiante, questo è assolutamente assodato, è vero. Certamente, ecco, mi lasci dire che il fatto di sapere comunque che una famiglia su quattro non riesca a risparmiare è senz'altro un dato preoccupante. Questo certamente deve far riflettere tutti noi, ma soprattutto le persone che sono chiamate proprio in questo momento anche a riflettere su quelle che possono essere le decisioni di politica economica. Come diceva giustamente lei, però, non possiamo prescindere anche dalle famiglie che comunque risparmiano, e famiglie che risparmiano magari con maggiore difficoltà. Allora, se mi permetti, io vorrei proprio trarre spunto da quello che è stata l'osservazione del nostro Presidente della Repubblica. Napolitano dice proprio in queste occasioni che ci vuole più disciplina nella gestione delle risorse, ovviamente lui dice pubbliche, e nell'attività finanziaria privata. Ecco, io direi proviamo a importare questo consiglio anche per le famiglie. Cioè, cosa vuol dire avere più disciplina nella gestione delle risorse? Vuol dire che se le risorse sono poche, probabilmente diventa ancora più importante una corretta allocazione dei risparmi. Perché, se mi consente, voglio sottolineare questo aspetto. Per due considerazioni. La prima, ormai già nota, però è opportuno ricordarlo, che la ricchezza delle famiglie italiane ancora oggi è pesantemente esposta sulle attività reali. Da una ricerca che ho fatto con un osservatorio realizzato all'Università di Parma e Pricewaterhouse, Coopers, risulta che addirittura il 63% della ricchezza patrimoniale delle famiglie è in attività reali. Sì. Quindi una cifra sicuramente importante, il restante in investimenti liquidi. Se poi associamo questo dato anche a un passaggio che ho trovato molto interessante su Sole 24 Ore di oggi della collega Boccerelli, in cui dice che il 26% delle famiglie negli ultimi 12 mesi invece di risparmiare si è trovato con un saldo negativo e deve ricorrere a debiti e, passaggio importante, al decumulo del risparmio pregresso, ecco, capiamo che in effetti in Italia ancora oggi manca la cultura della pianificazione finanziaria. Ecco, questo è un passaggio secondo me importante. Allora, dicevamo anche poco prima che cominciasse la trasmissione qui in studio con il collega Lo Conte, appunto, non solo viene fuori anche da questa indagine di Ipsos per Acri che molte famiglie, addirittura il 58%, preferiscono il mattone tra i beni reali, il mattone, il principe, proprio perché si vede, si tocca, cioè sì, è qualcosa forse che, come dire, è proprio concreto. Sì, forse non verrebbe da dire solo per quello, nel senso che sia più sicuro di altri investimenti è tutto da dimostrare. I dati storici evidenziano una sostanziale tenuta del valore degli immobili rispetto all'inflazione, ma parliamo di dati medi che evidentemente mettono insieme risultati molto differenti. Quando parliamo di questi sondaggi o dei dati di mercato, non dobbiamo mai dimenticare che mettiamo insieme il ricco e il povero, certo. Mettiamo insieme le famose medie di Trilussa, per cui quando si dice la gente non riesce più a risparmiare, qualcuno dice ma io insomma alla fine ce la faccio, altri invece che sono in una situazione molto più drammatica, per cui altro che risparmio. Dobbiamo ritornare all'idea che il mattone, per esempio, va bene, è molto redditizio nelle zone centrali e molto storiche delle grandi città, mentre nelle zone periferiche perde di valore. Non so se è capitato a qualcuno che ci ascolta di vivere a fianco di una famiglia particolarmente rumorosa o molesta, ecco, l'immobile certo. non acquisisce no. grandi valori in quel anzi, caso, ecco. Anzi. E per cui la percezione che si avrà di quella del valore di quell'immobile sarà ben diverso. Tutto ciò per dire che è vero, è storicamente legato al mattone l'italiano, però è vero che siamo a un momento, come diceva anche il professore poco fa, in cui dobbiamo prendere atto del fatto che non si può più rimandare una pianificazione finanziaria seria. Noi ne abbiamo parlato tante volte in questo programma, insomma Radio 24, sul Sole 24 Ore, come di qualcosa di estremamente importante, ma anche articolato. Forse è il caso di ritornare a un punto preciso. Quando si parla di pianificazione, è il caso di definirla proprio come una scelta di alfabetizzazione finanziaria, cioè le quattro cose, le cinque cose necessarie da sapere per districarsi nella vita quotidiana di tutti i giorni: il conto corrente, il mutuo, per esempio, sapere come funziona un mutuo, sapere come funziona la pensione per non trovarsi in un futuro in disgrazia. Con delle brutte sorprese. Esatto. Al di là degli investimenti, poi l'investimento è qualcosa che si può fare, si può anche non fare. Però ci sono. Anche perché non sempre si può. Esatto. Anzi, spesso non si può ultimamente. Però non si può prescindere da una gestione delle bollette, del conto corrente, di quella attività di economia domestica che riguarda tutti. Tutti. Torneremo su questo argomento tra pochissimo. Ci fermiamo prima, però vi ricordo i numeri 800 24 00 24 e 349 238 6666 per i vostri SMS. Le 12:35 minuti, come spesso succede quando si affronta questo tipo di argomento, arrivano anche degli SMS degli ascoltatori che non proprio arrabbiati ma quasi, perché giustamente chi guadagna 1200 euro al mese si chiede che cosa si possa pianificare con una somma così esigua. C'è anche da dire, lo dicevamo prima con il collega Lo Conte, che è necessario, proprio perché a volte si ha così poco a disposizione, pianificare anche le cose proprio della vita quotidiana più banali, non gli investimenti, quelli che noi riteniamo siano gli investimenti, ma anche le cose, appunto, come dicevamo, le più banali, come ad esempio il piano tariffario del telefono cellulare. Anche questa è una pianificazione finanziaria, se vogliamo, e anche questo necessita di informazione, di capire bene che cosa si sta leggendo in un prospetto e soprattutto, laddove si va a mettere la propria firma, poi comprendere bene quali sono tutte le richieste del gestore e tutte quelle che sono le condizioni. Quindi la pianificazione viene fatta anche proprio nel quotidiano più, diciamo, più banale, se così lo vogliamo dire. Ovviamente a questo proposito dobbiamo anche riportare le parole del governatore, che nel suo discorso ha detto: i consumi delle famiglie ristagnano perché i redditi reali non progrediscono e vi è diffusa incertezza sul futuro. Riprenderemo poi più avanti anche il discorso di Draghi, perché vorrei farvi ascoltare un passaggio a proposito del rapporto tra banche e cliente, perché un altro ascoltatore ci scrive: il problema è la mancanza di serietà del mondo bancario assicurativo italiano, che ha allontanato il risparmiatore dai loro prodotti. A questo proposito vorrei chiamare in causa anche l'ascoltatrice che ci chiama da Genova, la signora Claudia, che saluto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Ci dica. Allora, beh, io volevo dire che semplicemente una buona pianificazione finanziaria non può prescindere da un buon professionista. E giustamente questi professionisti non si possono trovare in banca. Io lavoro per una banca, sono un promotore finanziario. Sì. Faccio questo lavoro da 25 anni e più. In banca esiste un conflitto di interessi che è ancora troppo forte, di cui Draghi chiaramente si guarda bene dal parlarne. La pianificazione finanziaria è mirata al finanziamento delle banche stesse, se non ai loro interessi. Eh beh, certo, sono imprese, quindi fanno esatto, il proprio interesse. Esattamente, sono SPA e quindi giustamente io non sento mai parlare di una figura professionale. I media spingono il fai da te e quando i mercati vanno col vento in poppa sembra persino facile. Anche le banche online spingono il fai da te perché sembra quasi una panacea, si guadagna con comprando e vendendo sì. tutto, mi sembra. Mentre invece no, ci vuole un... Lei dice una figura che sia indipendente che sappia supportare le scelte dei singoli. Allora io a questo proposito vorrei far intervenire entrambi gli ospiti e quindi partendo dal professor Gandolfi, perché forse però prima ancora della figura professionale indipendente, professore, è proprio necessario, come dicevamo anche prima con il collega, partire dall'ABC, e l'ABC uno se lo deve costruire un po' da solo. Sì, guardi, direi che sono dati spunti molto interessanti. Allora, parto proprio dalla sua ultima osservazione. Intanto vorrei chiarire meglio, perché sennò sono parole che magari non tutti i radioascoltatori capiscono, cosa si intende per pianificazione finanziaria. Lei ha detto giustamente, non pensiamo soltanto all'allocazione dei risparmi, è vero, perché ricordiamoci che il risparmio è la risultanza dei redditi meno i consumi. Va da sé che se ci sono difficoltà certo. I consumi devono necessariamente essere rivisti. Come dicevo in mia premessa, naturalmente è un problema che non possiamo gestire noi, ma è un problema per chi governa la politica economica. Ma restando alle pianificazioni finanziarie, che cosa notiamo? Notiamo che, aggiungo ahimè, le famiglie italiane risparmiano, in passato per fortuna tanto, pensando che i risparmi siano un cuscinetto che possa servire per far fronte a qualsiasi esigenza. Torniamo all'abbondante liquidità. Quando in realtà per pianificazione finanziaria cosa si intende? In modo molto semplice, ossia individuare, magari come diceva giustamente la signora Claudia, assieme a un buon professionista, questo sì, perché non è un'attività semplice, sì. Dicevo individuare le reali esigenze attuali e future attraverso, da un lato, l'analisi del patrimonio esistente, se c'è, perché non è detto che ci sia, ma anche del reddito prodotto. Questo cosa significa? Significa dare delle priorità. Allora ne provo a dire una, visto che non possiamo dirle tutte, ma io ho a cuore, forse perché ho 42 anni e insegnando rapporti con i giovani, sì. Io noto in Italia ancora oggi un problema, nel senso che il tema della previdenza complementare, tanto per dirne una, è un tema assolutamente ignorato e trascurato. Quando in realtà dovrebbero essere proprio le persone della mia generazione o forse anche di quelli leggermente più giovani che sì. Se ne devono preoccupare, perché assolutamente. Quando ci se ne accorge è troppo tardi. Io vorrei portare alcuni dati. Pensi che in Italia soltanto il 17% della ricchezza finanziaria è in assicurazioni e fondi pensione, quando se noi guardiamo in una comparazione europea, e quindi non vado a vedere altri continenti, ma prendo la Germania 31%, Francia 38%, Svizzera 42%, Regno Unito 54%, Olanda 59%. Allora, già questo, mi perdoni se mi accolgo, perché prima è un tema molto importante, ci dovrebbe far riflettere. E poi chiudo, perché non voglio monopolizzare, intervento della signora Claudia, dicevo, corretto il buon professionista. Ecco, sul tema del conflitto di interessi io sarei cauto, perché le generalizzazioni a me onestamente non piacciono molto, sì. Nel senso che si possono trovare sia promotori finanziari sia dipendenti di banche che sono persone scrupolose, che fanno bene il loro lavoro e che cercano di conciliare gli interessi della propria azienda e naturalmente quelli propri e anche quello del cliente, quindi io su quello starei cauto. Ultima osservazione, il fai da te. Sì. Concordo quando dice la signora Claudia che in realtà è pericolosissimo. Qui ci sono fior di ricerche che dimostrano come il fai da te poi alla fine procuri più danni di quelle che sono le soddisfazioni. In sintesi, perché? Perché lo dimostra la finanza comportamentale, tipicamente gli individui che non sono esperti, e stiamo parlando di questi, sì. Commettono degli errori ricorrenti. Ne cito due su tutti. Una viene chiamata l'overconfidence, ovvero un eccesso di confidenza nei propri mezzi. Cito sì. Un esempio, bolla della New Economy, la borsa è alle stelle da mesi e mesi e mesi, a questo punto la persona sprovveduta dice: voglio guadagnare anch'io, entro sul mercato ai massimi e poi mi brucerò pesantemente. E poi c'è un altro elemento che è l'overreaction, cioè una reazione smodata anche di fronte a eventi negativi, ovvero il mercato sta segnando valori negativi da parecchi giorni, a questo punto in preda al panico esco senza a questo punto ricordare che in realtà l'investimento l'avrei dovuto fare coerentemente con i miei bisogni. Allora, Marco, il professore toccava dei punti di cui anche noi abbiamo discusso poco prima. Certo. Il fatto del fai da te, come si diceva, è una cosa molto pericolosa, però qui noi stiamo parlando anche proprio del conoscere certi argomenti, certi termini anche, che è necessario, come dire, fin da piccoli. Non è proprio un fai da te, ma tra l'altro lo rileva anche un ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666. Certe cose andrebbero insegnate proprio a scuola. Esatto, proprio questo è uno dei temi che abbiamo affrontato sabato scorso nel numero di Plus 24, che anticipava un po' la giornata del risparmio, il tema dell'educazione finanziaria. Educazione non etica dei comportamenti, ma cultura finanziaria, per meglio dire, come accennavo poco fa, alfabetizzazioni. Quali sono quelle 4-5 cose da sapere? Ne abbiamo parlato con un test davanti alle scuole, abbiamo verificato che le 5 domande chiave che abbiamo posto su come funziona il rischio, come funziona il tasso composto, l'inflazione e quant'altro, su queste 5 risposte solo una ha avuto la maggioranza di risposte positive dagli studenti delle scuole superiori. Negli Stati Uniti lo stesso test ha evidenziato soltanto il 10% dei risponditori che sono riusciti a dare 5 risposte corrette. Quali sono le cose da sapere? Sono come funziona l'inflazione, come funziona il tasso composto, che cos'è il rischio, che non è il pericolo. Il rischio è la possibilità che un risultato sia diverso rispetto a quello che preventiviamo in base ad una serie di fattori. Si tratta di capire quali sono i fattori e controllare di conseguenza il rischio. Ci sono diversi tipi di rischio. Il rischio, per esempio, come accennava poco fa il professore in collegamento, di muoversi in maniera emotiva e quindi perdere. Ci possono essere altri tipi di problemi collegati, per esempio quello di perdere delle occasioni. Le borse scendono, io disinvesto o non investo, questo può essere un fattore di criticità perché perdo l'occasione di entrare sul mercato avendo la disponibilità di liquidità, di denaro e di tempo soprattutto, che mi consentirebbe di avere un extra rendimento successivamente. Pianificazione significa esattamente questo, guardare razionalmente ai propri bisogni e muoversi di conseguenza, anche perché non siamo più come decenni fa, nell'epoca in cui lo Stato faceva tutto, bastava comprare il bot più o meno. Ci si stava dentro con l'inflazione, più o meno. Sembrava guadagnare tanto, ma in realtà ci si copriva giusto l'inflazione. Poi con i collocamenti di Stato, Telecom, Eni, Enel, i fondi comuni, ci si è affidati a un intermediario, per esempio il promotore finanziario che citava l'ascoltatrice poco fa. Promotore finanziario, come tanti altri addetti ai lavori in potenziale conflitto di interesse, anche lui, anche lei, insomma, anche tutti coloro i quali lavorano e non sono enti no profit hanno evidentemente un interesse sul mercato, certo. Per cui si tratta di capire come anche il consulente indipendente potrebbe dare dei consigli errati pur di attrarre la clientela. Il punto è che oggi siamo in una nuova fase ulteriore, sono passate queste epoche, siamo nella fase in cui il singolo è responsabile di quello che fa, anche se si affida ai consigli di un promotore finanziario, di un consulente o di un assicuratore, perché alla fine la firma rispetto a un ordine di acquisto, una sottoscrizione di uno strumento, è sempre la sua, e l'intermediario, e questo gli intermediari lo sanno, se lo dicono e lo mettono per iscritto anche nella carta degli statuti di trasparenza eccetera, la responsabilità delle scelte del cliente è del cliente, certo. Infatti un ascoltatore ci scrive: va bene il professionista, ma devo comunque capire che cosa mi sta dicendo. Perfetto. Così vedo le differenze e capisco soprattutto cosa mi stanno vendendo, e se non capisce meglio lasciar stare. Le 12:48 e 24 secondi. Antonio da Milano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Niente, io la domanda che volevo fare è questa. Si parla di pianificazione finanziaria, correttissimo, bisogna farla. Però quando io ho uno stipendio di 1200 euro al mese, col quale faccio fatica ad arrivare a fine mese, ho una situazione lavorativa, lavoro che ne so da 20 anni, e mi si dice tu fra 20 anni, se andrai in pensione, ci andrai col 30% del tuo reddito. Allora, se io devo investire una quota del mio stipendio mensile per poter accantonare una pensione futura, non è più vero che guadagno 1200 euro al mese, ne guadagnerò 1800, 900. Come si fa a fare un ragionamento in quest'ottica, visto che comunque chi è adesso in pensione, la pensione gli va garantita? Allora, professore, io giro a lei questa osservazione, che poi tra l'altro avevamo fatto anche in apertura di programma. Ovviamente ci si trova sempre in difficoltà, almeno da parte mia, ad affrontare il tema del risparmio delle famiglie, quando poi appunto sappiamo che in tanti guadagnano quel po' che gli basta, e non sempre, per arrivare alla fine del mese. Certo, quindi è una bella domanda spinosa. È così, ragione, è la realtà dei fatti. Guarda, intanto, prima di rispondere, non è per prendere tempo, vorrei complimentarmi e ringraziare pubblicamente il dottor Lo Conte e la vostra testata per quello che state facendo per l'educazione finanziaria. Questo me lo lasci dire, perché è fondamentale. Vengo però a questo punto alla domanda. Ovviamente io, come ho cercato di dire, forse non sono stato chiaro, solidarizzo ovviamente con Antonio, con tutte le persone che come lui vivono in serie difficoltà. Però vede, questo è un problema che, se vuole, un po' esula dalle nostre capacità, perché qui si richiama un tema che è il conflitto intergenerazionale. Antonio dice giustamente, se io guardo i miei nonni, forse no, era giovane dalla voce, probabilmente se guardo i miei genitori hanno dei diritti acquisiti che non saranno quelli che io avrò. E purtroppo è vero, è un dato di fatto. Vede, io più che a questo punto esprimere la mia solidarietà, non posso che dire mettiamoci nelle mani di chi ha i poteri decisionali, chi può fare leva sulla politica economica. Però allora, anche qui, perché anche la storia ci deve far pensare, io ovviamente non spero di dover tornare a quello che era l'epoca dei miei nonni, però io e i miei nonni li ho avuti quando loro hanno vissuto durante la guerra, hanno avuto delle grosse difficoltà, e con poco sono riusciti a scampare. Allora, adesso non voglio evocare scenari tristi, però dico che un minimo di sacrificio dobbiamo cercare di fare, e dico ad Antonio, se è giovane, di pensare al proprio futuro. È vero che se devi accantonare qualche risorsa per la previdenza complementare, la sta sottraendo ai consumi esistenti, ai consumi attuali, però non deve ignorare questo fatto, perché non può pensare che il suo futuro sarà come quello dei suoi genitori. No, ma tra l'altro non penso che il signor Antonio ignori questo fatto, semplicemente faceva notare che a volte è proprio difficile risicare anche somme minime da quello che è un salario mensile, che a stento riesce a coprire quelle che sono le esigenze, perché poi non penso che il signor Antonio si possa permettere chissà quale tipo di vita o comunque di svaghi nel corso della settimana. Lino da Milano, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Ci dica. Volevo dare un piccolo contributo in merito a quanto sosteneva poc'anzi l'esperto circa le assicurazioni, evidenziando la scarsa propensione degli italiani per tale istituto, no? Insomma, io credo che la colpa è esclusivamente delle banche, perché con il passaparole significa che poi le persone rinunciano a simile investimento. E ne ho un esempio io, per fortuna una somma modesta, no? Che non mi produce un bel nulla. E quindi che esempio posso offrire io agli altri? Ora lei mi dirà, ma sa, bisogna leggersi bene le condizioni, bla bla bla, tutte le solite storie. Ma uno che contatta la mia è Banca Intesa, quindi non è una bancarella, insomma, è un grosso istituto, no? E allora cosa fa chi ha in mente di investire qualche spicciolo? Sì. Confida nella professionalità di chi è preposto a simile ruolo, no? Sì. Non si può pensare che al di là ci siano dei banditi. Quindi la banca deve guadagnare, e su questo tutti quanti siamo... Per forza sono delle imprese, no? L'abbiamo sempre però, detto. Però vuol salvaguardare le sue attività, facendo in modo che chi investe, guadagni, ricavi qualcosa, come è giusto che ricavi la banca. Allora, quindi in qualche modo dovrebbero avere a cuore anche gli interessi del cliente. Noi si spera anche prioritariamente, ecco. Questo è il punto. Allora, giustamente sottolineavi, la banca è un'impresa, un SPA, deve fare profitti, utili per i propri azionisti, è il suo compito, così come tutte le imprese ci devono riuscire. Chiaro, come? Questo è il quesito, perché se ciò è a scapito della clientela, la clientela ha tutto il diritto di voltare le spalle e andarsene. Raccontavo fuori onda, l'ultima volta che sono entrato in una filiale bancaria ho chiuso il mio conto corrente, che avevo aperto da una quantità di anni tale che non rivelo, perché sennò rivelerei anche la mia età anagrafica. Allora, il punto è quello che dicevo prima. Non si può più entrare in una banca di fronte a un assicuratore, di fronte a un consulente, a un promotore finanziario, di fronte a un esperto, a un addetto ai lavori, a uno che lavora in questo campito, affidandosi a loro in maniera totale, dando loro fiducia e dando loro una delega in bianco per fare delle cose con i nostri soldi. Questa epoca è finita. Tutto ciò che si fa, si deve fare capendo quello che si fa e sotto la propria responsabilità, con l'aiuto di professionisti che ci possono aiutare, ci possono dare un contributo straordinario per comprendere i mercati, per gestirli, ma anche senza investire, per scegliere per esempio il mutuo migliore per le nostre esigenze, più conveniente per esempio, anche se non è il più conveniente, quello che va più in linea con le nostre prerogative. Ma non possiamo pensare di entrare in banca, una grande banca, e dire insomma sono grandi per cui mi affido e poi non mi fa guadagnare. Forse sono grandi per questo. Marco, in una battuta, perché abbiamo veramente pochi secondi, qualcosa a proposito dei programmi per le scuole, per cercare di avvicinare i ragazzi. La Banca d'Italia si è fatta carico, si sta facendo carico di questa cosa. Allora, in questi giorni, anche in concomitanza alla giornata risparmio, molti istituti di credito, molti attori finanziari propongono educazione finanziaria. Noi abbiamo sottolineato la posizione della Banca d'Italia, cioè la vigilanza, che dice l'educazione finanziaria la facciamo noi. Ecco, la facciamo noi, o per meglio dire, la si fa a scuola. E noi formiamo gli insegnanti, gli altri lasciano capire, è meglio che non la facciano, perché questo è marketing, è qualcos'altro. L'educazione finanziaria, ed è questo il testo del disegno di legge che giace, speriamo che venga, che vada avanti in Parlamento, che diventi operativo, ma così come accade all'estero, l'educazione finanziaria, l'alfabetizzazione finanziaria si fa a scuola, lì si formano le persone, le famiglie vengono coinvolte in maniera senza conflitti di interesse. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento con Salvadanaio è rinnovato per domani dopo il GR delle 12. Salvadanaio.